Savonarola, il frate che scavezzò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, quando l'abito che ognuno indossava parlava dello status sociale della persona che, va da sé, più era ricca, più tendeva a vestire abiti sgargianti e appariscenti, cioè costosi, lasciando quelli semplici alle classi più cafone, che sono quelle che restano sempre un passo indietro. E lette da me oggi, quando l'abito che ognuno indossa è praticamente uguale a quello di qualsiasi altro, indipendentemente dallo status sociale di una persona che, va da sé, più è cafona, più tende a vestire abiti sgargianti e appariscenti, cioè costosi, lasciando quelli più semplici alle classi più alte che restano sempre un passo in avanti. D'altra parte, chi fa tutte le feste, povero si veste, e comunque, l'ultimo vestito ce lo fanno senza tasche. Serio. Capitolo 39. Per la libertà. Intanto i difensori facevano menare gli accusati per mezzo della pratica scalzi ed inferri, ma invano, con la presenza, con gli atti e con le parole, cercavano muovere la pietà dei circostanti che, a malapena, sapevano frenare gli sdegnati animi. Arrivati al palazzo del capitano, furono lasciati breve tempo coi loro confessori, onde pensare ai casi dell'anima. Ed in questo mezzo il Valori, che era divenuto quasi padrone della città, pose 300 fanti a guardare il palazzo contro ogni tumulto d'amici o parenti degli accusati. Nella corte del capitano già tutto era in ordine, vi si affollava d'ora in ora tanta gente, così diversa che, per servirci della espressione di un contemporaneo, parea divenuta una spelonca d'inferno. V'erano uomini con volti pieni di feroce sdegno, con l'armi in mano e la vendetta nel cuore. In mezzo ad essi vedeansi dei nobili cittadini che, invano, cercavano quasi nascondersi e celare la paura della propria vita e il dolore e lo sbigottimento per quella degli amici o parenti che fra poco vedrebbero morire. Molte crudeli ingiurie, molte amare angosce dovettero sopportare quella notte. Intanto la tumultuosa confusione d'armi, di bestemmie e di strepito andò crescendo fino alle ore 7 di sera, quando successe invece un funereo silenzio. Venivano i condannati ad uno accompagnati dal magistrato della giustizia e dal confessore insino al luogo del supplizio, dove ciascuno di loro pose animosamente il capo sul ceppo e tutti sostennero con gran fermezza l'estremo supplizio. I loro corpi furono resi ai parenti. Quella medesima notte la signoria scriveva a Roma facendo la relazione del fatto nei termini seguenti. La città è stata tutta unita contro a questi perfidi e parricidi cittadini, infino ai parenti, avendo desiderato che fosse fatta giustizia. E ora si spera avere a stare un pezzo in buona valetudine, perché tutta la brigata è inanimita a estirpare qualunque simile rampollo. Iddio abbia misericordia di quelle anime che veramente, avendo tradito la patria, ne hanno bisogno. Così finivano la vita a cinque cittadini che, per autorità, per condizione, per faccende pubbliche e private, erano tenuti fra i primi della Repubblica. Altri pochi vennero leggermente puniti come consapevoli, e fra Mariano da Gennazzano, sebbene riconosciuto dei più rei, essendosene fuggito a Roma, non potette avere altra pena che l'esilio. A Lamberto dell'Antella e al fratello fu non solo perdonata la vita, ma concesse le armi, cancellate le gravezze dei corsi e fatti ancora altri benefici, non però tolto affatto ogni bando di ribelli. Le sue rivelazioni e i processi di tutti i condannati furono tenuti segretissimi, a ciò che, una volta puniti gli autori della congiura, ne fosse, quanto più era possibile, cancellata per sempre la memoria. Adesso a noi importa di notare che, durante questo giudizio così tumultuoso, il Savonarola stette sempre chiuso in convento senza prendervi alcuna parte, occupato solo a correggere la stampa del suo trionfo della croce. Negli storici di quel tempo, nelle memorie, nelle lettere e biografie non troviamo alcuna parola che ci permetta di credere che il Savonarola avesse favorito o disfavorito gli accusati. Due volte egli accennò a questo fatto nel suo processo e la prima, parlando di Bernardo del Nero, diceva: «Non confortai che fosse morto, bene avrei avuto caro che fosse mandato via». La seconda soggiunse che di quei cinque cittadini non se n'era impacciato in particolare, ma che, sebbene freddamente, pure aveva raccomandato Lorenzo Tornabuoni al Valori. Il che dimostra chiaramente come, se cercò di fare qualcosa, fu solo per temperare un poco il gran furore che v'era contro agli accusati. Eppure, non appena si cominciò a calunniare la memoria del Savonarola, che subito venne chiamato da tutti autore principale del negare l'appello agli accusati dopo essere stato promotore della legge che lo concedeva. Né alcuno volle mai considerare che quella legge fu propugnata dal Vespucci e non dal Savonarola, il quale piuttosto la oppose o almeno la fece combattere dai suoi seguaci. La storia dei fatti ci prova d'altronde con troppa evidenza che egli allora non poteva in alcun modo esercitare il suo ascendente né sopra il popolo né sopra i giudici, giacché dopo la scomunica e quando ancora pendevano le trattative per farla ritirare, grave errore, anzi grave stoltezza, sarebbe stata risalire sul Pergamo. Quanto al Valori, che certo ebbe grandissima parte in quelle decisioni, bisogna pur dirlo, sembra che si lasciasse soverchiamente vincere dall'odio o gelosia che aveva contro a Bernardo del Nero, suo nemico politico. Sebbene d'animo generoso e leale, era pure uomo che in tutte le cose andava più per impeto che per ragione, e in quelle accese discussioni non seppe mai frenare se stesso, né molto meno poteva essere frenato dall'autorità del Savonarola, allora lontano e chiuso nella sua cella. Bisogna finalmente considerare che, se le lettere degli ambasciatori non fossero giunte nella pratica, in quel momento stesso in cui ognuno s'era acceso di tanto sdegno contro al procedere troppo fiacco e punto imparziale dei magistrati, forse che agli accusati anche questa volta sarebbe riuscito di mandare in lungo la decisione. Fu quindi un concorso di cause, non prevedute né prevedibili, che fece decidere a un tratto la morte di quei 5 cittadini, i quali però, secondo le leggi, secondo l'opinione universale di tutto il popolo e secondo la giustizia dei tempi, erano certo meritevoli della pena che subirono. Il processo, è vero, non fu regolato con tutte le forme giuridiche, ma se la prima illegalità nacque dalla troppa indulgenza dei magistrati, i quali, avendo trovato gli accusati convinti d'alto tradimento, non ardivano pronunziar subito la condanna di morte per poi concedere l'appello, il disordine maggiore e più colpevole venne dai difensori degli accusati. Una volta che si avevano nel principio ricusato di sottomettersi al giudizio del Consiglio Maggiore, che avevano chiesto e ottenuto un tribunale straordinario nel quale s'erano radunati tutti i principali magistrati e cittadini di Firenze, non v'era più alcun luogo a chiedere l'appello. Essi non potevano addurre altra ragione in loro favore, salvo quella evidentissima di voler procedere ad una illegalità in un'altra per guadagnar tempo e aspettare la nuova signoria. E dovevano i magistrati rendersi due volte strumento di quelle arti malvagie e la pratica consentire a tali violenze? Anche l'opinione di tutto il popolo si vide assai chiaramente riconfermata pochi giorni dopo, quando fu introdotto nel Consiglio Maggiore il figliolo del Ridolfi, che veniva a chiedere grazia dei beni confiscati al padre, giacché, messa la domanda 3 volte a partito, fu per 3 volte respinta. Nelle leggi, adunque, nel Consiglio Maggiore avrebbero mai assoluto quei 5 cittadini. Quanto al Savonarola, egli non volle e, volendo, non avrebbe potuto favorire né disfavorire una sentenza che fu decisa nel calore, o per meglio dire nel furore, d'un'impetuosa discussione. Dopo la morte di Bernardo del Nero e dei suoi compagni, i piagnoni divennero potentissimi e in 6 mesi seguirono successivamente 3 signorie tutte popolari che, nel reggere lo Stato, altre difficoltà non trovarono se non quella di provvedere alla mancanza assoluta di danari. Ma la disputa sempre più inasprita del Savonarola col Papa era causa di continuo dolore al governo e al popolo. Non solo dispiaceva loro il vedere un uomo tanto benemerito della patria e della religione così ingiustamente trattato, ma nel pigliare le parti del frate essi mettevano se stessi e la Repubblica in un continuo e crescente disaccordo con Roma. Ogni giorno andavano caldissime lettere all'oratore messer Alessandro Bracci perché cercasse di ottenere l'assoluzione del Savonarola. Scrivevano i signori: «Noi vogliamo che voi picchiate, gridiate, facciate ogni possibile istanza e non cessiate né perdoniate ad alcuna fatica, tanto che questo effetto segua». Il Papa non dava alcuna risposta, ma invece aspettava tempo meglio opportuno ai suoi disegni e il Savonarola, approfittando della tregua, s'era ritirato nel convento dove con attività veramente incredibile davasi tutto a scrivere nuovi trattati e a pubblicare quelli già scritti.